fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina vorrei parlarvi di un atteggiamento generale che io sento nell'aria, ma è qualcosa di impalpabile, di impercettibile, del quale ho soltanto qualche segnale concreto, ma sono io che l'ho interpretato in questa direzione, non è detto sia esattamente così, e quindi chiedo il conforto di chi mi ascolta per smentire o per confermare questa mia impressione. Ho l'impressione che serpeggi un po' una sorta di desiderio quasi punitivo di ogni eruzione di gioia, di felicità. È vero, sì, viviamo in un momento in cui crisi economica appesantisce molto la nostra possibilità di essere lieti, di essere spensierati. Ma alcuni piccoli segnali che elencherò e di cui darò dimostrazione sonora questa mattina mi fanno pensare che in realtà esista una sorta di pensiero gerontocratico, che significa dominio dell'anzianità, non come simbolo di saggezza, simbolo di esperienza di vita acquisita, ma come tristezza, una specie di dittatura della pantofola che vorrebbe tutti silenziosi e tutti austeri e tutti a letto con le galline, ciò che implica, fatto che implica anche una pericolosa deriva, tutti senza nessun desiderio di esprimere momenti di felicità, tutti bloccati in una sorta di integerrima condotta di osservanza di alcune regole esteriori che non hanno nulla a che fare con il rispetto della buona educazione, il rispetto dei diritti del nostro prossimo, non essere disturbato, no, secondo me c'è qualcosa in più, c'è una sorta di desiderio di voler trasformare l'umanità, soprattutto l'umanità che è sotto una certa età, che ancora avrebbe bisogno di fare gioiosa esperienza della vita, in un grande e terribile riformatorio. Alcuni adolescenti hanno incominciato a usare l'eroina, ma non se la iniettano, la fumano. Dicono che dà loro una grande serenità. Poi, nel weekend, quando vogliono scatenarsi tutta la notte, passano alla cocaina, che a loro dire trovano facilmente su internet a basso costo. Questi adolescenti, quando sono a scuola, in casa, quando si trovano con gli adulti, non ascoltano. Comunicano solo all'interno del loro universo adolescenziale, con mezzi che gli adulti non possono controllare. SMS, internet, chat, YouTube, internet, chat, YouTube. Si incontrano di notte, nelle discoteche e alle feste. Coi genitori recitano e questi non sanno nulla della loro vita reale. Considerano i docenti dei falliti che insegnano cose inutili e guardano con compatimento gli psicologi. Fra loro parlano poco, piuttosto chattano e ascoltano musica. Ricordate, noi ne parlammo la mattina stessa, un paio di lunedì fa, in cui si produsse in prima pagina del Corriere della Sera il mistico editoriale di Francesco Alberoni che chiedeva una moratoria per SMS e internet per i giovani. YouTube, internet, tutte le meravigliose protesi emozionali di cui noi parliamo da anni che permettono all'umanità di espandersi, di usare queste macchine per comunicare, per dare il meglio di se stesso, anche il peggio se vogliamo, ma qualcosa che comunque va oltre la nostra definizione esteriore, un meraviglioso lubrificante per vincere quello che è l'attrito da distanza. Oggi noi siamo impegnati in una continua corsa, corsa con il tempo per percorrere idealmente, fisicamente le distanze. È tutta la nostra giornata, è un movimento, è non guadagnare spazio e quindi consumare il tempo. Quindi il prezzo del nostro tempo è altissimo, vale tantissimo il nostro tempo. Se delle macchine ci permettono di vincere questo attrito che ci invecchia e che ci logora della distanza, semplicemente velocizzando i nostri rapporti, permettendoci di dare parte di noi stessi a un'infinità di persone, sono macchine che in realtà forse hanno una sorta di prometeica sfida a quella che è la legge degli dèi. E quindi il professor Alberoni pone al centro di tutte le obiezioni in cui realmente si muove gran parte della gioventù contemporanea, di cui siamo molto preoccupati, di cui ci facciamo carico anche noi, visto che i giovani sono l'esito della nostra vita, del nostro pensiero, delle nostre idee. Ma questo lo diciamo noi, lo dico io, non lo dice Alberoni. Per Alberoni è soltanto un problema di limitare la tecnologia ai giovani. Ciò che ai giovani dà gioia, dà espansione, dà vertigine di onnipotenza, dà possibilità di relazione al di là delle distanze, al di là delle barriere, che rende uguali tra di loro una sorta di enorme tribù di persone che possono colloquiare, che in realtà non è strumento proprio dei giovani, ma è strumento ormai multigenerazionale, però viene indicato in una lettura molto banale, molto superficiale, molto limitativa, molto ideologica, come lo strumento di evasione dei giovani a cui bisogna porre rimedio. La nuova generazione non ha radici, non ha fondamenti etici, non ha cultura né classica né politica. Mi domando se a questi adolescenti non farebbe bene un periodo di moratoria in cui si chiudano loro YouTube, le chat, le discoteche, si limiti l'uso di internet e dei cellulari per consentire loro di ricominciare a parlare, di riprendere contatto con le altre generazioni, con i giornali e i libri. Una moratoria periodica di 2 mesi l'anno, una cura disintossicante. 800 24 00 24. Noi analizziamo questa mattina alcuni segnali per cui la moratoria di Alberoni da una parte e altri segni di cui vi darò immediata conoscenza, testimonianza, ve li ricorderò perché hanno primeggiato e padroneggiato sulle pagine dei giornali negli ultimi giorni, dà l'impressione che in realtà questa sorta di austerità reale, concreta, data da concrete maniere di apprensione nei noi, nelle nostre famiglie, nelle persone che ci circondano, sia anche amplificata, galleggi pure in una sorta di punitivo senso di mortificazione di quelli che sono degli strumenti, se volete, contemporanei, poco conosciuti e con pochi precedenti, però per uscire in realtà dalla tristezza, dalla mestizia e dall'isolamento. Secondo punto, dopo la moratoria del professor Alberoni, ieri tutti i giornali hanno lungamente parlato di un'altra iniziativa, un'iniziativa legata al periodo quaresimale, periodo in cui naturalmente le persone di fede e di osservanza religiosa hanno una particolare attenzione a centrarsi su quelli che sono i momenti essenziali della propria esistenza, e quindi il periodo di quaresima tradizionalmente ha sempre imposto delle piccole rinunce, dei piccoli sacrifici. Noi ai tempi della nostra fanciullesca frequentazione di parrocchie, di luoghi di comune impartizione delle regole di dottrina, ci venivano fatti fare i fioretti, avevamo il quaderno dei fioretti, i nostri piccoli fioretti di bambini, era rinunciare a un biscottino, rinunciare a qualcosa che ci facesse piacere, rinunciare a piccoli leciti piaceri che in sé non rappresentavano una forma di colpa, ma rappresentavano un'apertura alla felicità, alla gioia, al compiacimento lecito dei propri sensi. E singolarmente quest'anno il vescovo di Modena, con l'appoggio dell'Azione Cattolica, degli scout e della Gesci, lancia un nuovo tipo di fioretto per la quaresima. Lo titolano ieri in prima pagina molti giornali: a quaresima niente SMS. Le nostre dita corrono veloci sulla tastiera del telefonino, scrivono messaggi a tutte le ore per comunicare e a volte per isolarci da tutto e tutti. Cambiamo i nostri cellulari a ripetizione, alla ricerca di un modello con nuove, spesso inutili funzioni. Le nostre dita corrono su un minerale, il coltan, fondamentale per la tecnologia di telefoni, computer e videogiochi. Nel mondo, l'80% del coltan proviene dalla regione orientale del Congo, il Kivu, dove una guerra civile ha causato oltre 4 milioni di morti negli ultimi 10 anni. Nei venerdì di Quaresima, il Centro di Animazione e Formazione Missionaria ti propone un digiuno particolare: rinunciare all'uso degli SMS. È solo un segno per ricordare l'importanza di relazioni dirette, uno strumento per sottolineare che i nostri stili di vita hanno ricadute lontano. Le nostre dita sul telefonino contribuiscono a scrivere la storia di milioni di vite in Congo. Un digiuno di un giorno per una quaresima di relazioni e corresponsabilità. Andando poi nello specifico, visto che i giornali si fermano sull'aspetto eclatante, la notizia, il divieto di trasmettersi SMS, poi al di là dell'aspetto interessante e a volte anche lievemente malizioso la notizia, perché vietare gli sms, perché gli sms sono portatori a volte di comportamenti trasgressivi. L'sms è legato all'espansione della propria sensualità, del proprio desiderio, della propria capacità emozionale, della propria capacità seduttiva, anche perché in realtà poi nello specifico di questa richiesta esiste una motivazione equa e solidale. La materia prima con cui sono fatti i telefonini è una materia che costa fatica, sudore e sangue ad alcune popolazioni del terzo mondo, quindi bisogna farci attenzione. Ma è anche vero che lo stesso discorso potrebbe essere fatto per i palloni da calcio, per una serie di oggetti di uso comune che non fanno parte però di quelli a cui si pone limite con i fioretti. Vi do l'ultima mia sollecitazione, visto che voglio fare il quadro completo, e poi vi prego di dare il vostro parere chiamando l'800 24 00 24, se è vero che avvertite un senso diffuso di limitazione alle nostre possibilità di essere felici. Lecito per il credente in tempo di Quaresima, lecito per il fan del professor Alberoni, maestro di erotismo e di discussioni sul senso dell'amore, lecito anche per chi la sera probabilmente vuole sentirsi la tranquillità di poter dormire senza gente per strada. Stanno serpeggiando molto velocemente, in alcuni comuni sono state applicate, come a Viterbo ad esempio, a Roma se ne sta discutendo animatamente, delle norme che vieterebbero la degustazione del cornetto notturno. Ora esiste una ritualità tipicamente nostrana, non credo che esista simile ad altre latitudini, di uscire la sera, fare bisboccia con gli amici, tirare tardi, arrivare fino a lambire dell'aurora, che quando con le rose dita tinge il cielo, avere come ultimo guizzo della botta di vita, andare da un cornettaio, che è un fabbricatore di paste, brioche, cornetti, e mangiarsi i primi cornetti caldi della mattina. Quindi una cosa che tutti abbiamo fatto, ricordi meravigliosi, di mattina in fila dal cornettaio, sembrava fra i tanti rituali notturni, fra le tante trasgressioni possibili, la più innocente. Ma improvvisamente si è puntato il dito contro il cornetto notturno. Vietiamolo. E in molte città d'Italia, ahimè, ci si sente quasi in colpa e si va a cercare un signore che ci dia cornetti caldi, come si potrebbe cercare un pusher che ci dia la dose di cui non possiamo fare a meno. A Roma scatta il coprifuoco per i cornetti caldi, Dandini. È vero! Vietati dopo l'una di notte per ragioni di ordine pubblico. Non bastava vietare solo bombe e bomboloni, anche i cornetti, cazzo. Che vergogna, che peccato. C'è ancora che se li tira. Questo era Dario Vergasso, che normalmente ironizzava in un programma televisivo su questa occasione di facile ironia. Questa mattina vorrei discutere e avere qualche elemento che corrobori la mia intuizione, che può essere senz'altro fallace, anzi spero che sia smentita alla fine, che tutti voi mi direte che in realtà è una mia fissazione, un mio senso di personale cupezza, che non è così, che nessuno vuole limitare le possibilità di essere felice, di avere piccole felicità lecite. Ho chiamato l'amico Stefano Morigi. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Mi direte, un filosofo della scienza cosa c'entra di fronte a questi problemi? Ma tu, Stefano, di fronte a quello che ho detto, che ho fatto ascoltare a te come ai nostri ascoltatori attenti, non trovi un serpeggiare qualcosa di antico che già abbiamo visto in varie epoche, in cui un certo pensiero legato alla conservazione di uno status di tranquillità, o perlomeno di possibilità di gestione di tutti gli impulsi, di tutte le uscite dalla regola, si stia concretizzando in questi piccoli segnali che le cronache trattano come facezia, come divertimento di una mattinata? Assolutamente sì, senza necessariamente, almeno per ora, entrare nello specifico della tecnologia. Nella parabola che tu tracci mi sembra di cogliere quella verità custodita in quella battuta di una canzone di De André, in cui si diceva che la gente, quando non dà buoni consigli, quando non può più dare il cattivo esempio. E mi sembra questa l'idea che da Alberoni arriva fino a Modena, cioè l'idea di immaginarsi dei giovani irregimentati da regole più o meno edificanti, che in qualche modo confinino le loro vite in un limbo in cui non possono farsi del male. E bisognerebbe capire però cosa significa farsi del male. Se proteggersi troppo, per esempio, non è una stessa forma di farsi del male. Poi, quali sono i nuovi luoghi del male che questa etica della pantofola sembrerebbe così proiettare su questi presunti scapestrati, nei quali per esempio, pur non essendo così più giovane, io stesso mi riconosco in molte di queste abitudini. Perché è accaduto anche a te di essere, di sentirti in colpa per cercare un cornetto di notte a Milano? Ma sai, più che sentirmi in colpa, di sentirmi frustrato in questa abitudine. Io ho orari forse improbabili rispetto a quelli che di solito sono abituali nel nord Italia, mangio tardi e molto spesso vado in cerca di cornetti, sarà una mia colpa, ma ultimamente mi sono trovato la serra cinesca abbassata dicendo non possiamo più farlo. E spesso mi sono trovato anche qualche mio studente a fianco e in piacevole compagnia, nel senso che non stavamo facendo niente di male né io né lui, se non il tentativo di gustarci un cornetto a orari dove forse altri e più come dire moderati pensatori sono già a letto. Ma benissimo andare a letto, benissimo gustarsi anche il cornetto, non ci vedo questa pericolosità. Non mi sentivo io più in pericolo di quanto non lo fosse Alberoni, ma che magari era già tra le braccia di Morfeo, insomma. Ecco, ho al telefono adesso, visto che ho sollevato il problema e ho accomunato queste iniziative in un unico pensiero comune, e vediamo se è così o se in realtà mi sono sbagliato, Francesco Panigati, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Per il Centro Missionario Diocesano di Modena, che mi sembra che lei sia il promotore o perlomeno l'anima di questa iniziativa No SMS Day, ho qui davanti la videata della sua pagina Missio, cioè bellissimo, c'è un iPhone di ultimissima generazione con scritto questo No SMS Day. Ecco, da cosa nasce questa idea di bloccare l'SMS come un fioretto, come se fosse un piacere di cui bisogna privarsi in nome dell'osservanza della Quaresima? Forse in questo modo qua sembra davvero, risulta davvero solo un divieto. In realtà, come ogni digiuno di Quaresima, noi abbiamo cercato di dare una motivazione a questa richiesta, che non vuole assolutamente essere una privazione, non vuole assolutamente essere un divieto obbligato, nessuno è obbligato a farlo, chiaramente, giustamente. Ma come i fioretti ai nostri tempi, è più o meno la stessa cosa. Sì, però dietro noi abbiamo cercato di dare motivazioni. Voi avete letto all'inizio, poco per fa, le motivazioni che noi abbiamo dato. Noi abbiamo detto rinunciare agli SMS, ma rilanciare, fare qualcos'altro, cioè relazionarsi direttamente. Poi se uno vuole mandare l'SMS lo mandi, non è un problema. Abbiamo detto incontrarci, perché crediamo che dietro un incontro, dietro l'amicizia, riscoprire un modo diretto di parlarsi, forse ci possa stare anche un benessere, uno star bene, ecco. E la seconda cosa che non sottovaluterei, ecco, che i nostri consumi comunque davvero influenzano la vita di altre persone in Congo, come avete detto a proposito delle miniere nel Kivu. E questo però è proprio solo per dire che il segno nostro è piccolo. Il segno nostro è piccolo per dire che forse la società di oggi ci porta a cambiare cellulari spesso, a essere sempre alla ricerca dell'ultimo modello, alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo, e a volte forse non è necessario, ecco. Lei avrà visto ieri sulla stampa che Enzo Bianchi, il priore di Bose, ha fatto un lungo editoriale su questa iniziativa, assimilando il senso del sacrificio, il senso che deve essere legato comunque alle rinunce quaresimali, appunto questo SMS TV. Ma c'è un piccolo e sottile anche senso profondo, ma glielo chiedo con grande candore, senza dover fare le trappole. Nel considerare però l'SMS come qualcosa legato a una libera espansione anche della propria emotività, della propria sensualità, e quindi assimilabile in qualche maniera a quella che una volta era la colpa della carne, la colpa dell'SMS. Guardi, da parte mia no, assolutamente. Io non ho, è la prima volta questa mattina da lei, l'ho sentito poco fa in trasmissione, assimilare questa cosa degli SMS a questa trasgressione un po'. Lei sa che la maggior parte delle attività trasgressive, dei leciti rapporti matrimoniali, viene oggi individuata, scoperta e repressa attraverso SMS malandrini che vengono trovati, quindi non è neutrale e non è qualcosa del tutto innocente l'SMS, è anche quello. Certo, però la nostra proposta è rivolta particolarmente ai giovani, e questo non so se possa starci questo dietro, le dico la verità, non le confesso, non ci avevo mai pensato. Io ho una figlia di 13 anni, quasi 13 anni, lei invia SMS, non credo abbia questa malizia dietro questa cosa qua. E pensando proprio a mia figlia, anche dico, forse a volte si abusa di questa cosa qua, quando si può anche fare con meno, e forse se mia figlia di 13 anni qualche volta prendesse la bicicletta e andasse a trovare gli amici invece che mandare un messaggio, forse imparerebbe anche a dialogare, e oggi di dialogo abbiamo tanto bisogno, ecco. Va bene, è chiaro, siamo contenti che abbiamo dato una notizia completa, perlomeno non legata all'aspetto esteriore lievemente scandalistico della Quaresima senza SMS. Vedo che è molto piaciuta agli ascoltatori, perlomeno da quello che sto leggendo su Facebook, una frase che mi è venuta così, dove dico che alcune macchine per comunicare, nuove tecnologie comunicative, in realtà sono il lubrificante per sopportare meglio l'attrito da distanza, che in fondo è ciò che veramente ci logora che tutto ciò che noi dobbiamo raggiungere non è a portata di mano, perlomeno non lo era quando i nostri limiti erano limiti spaziali. Oggi possiamo vincere questi limiti, possiamo essere vicinissimi a tante persone, essere contemporaneamente tanti noi stessi. È chiaro che ciò genera apparentemente nevrosi o anche concretamente nevrosi, ciò genera sconcerto, persone che si possono espandere in maniera mai vista prima rispetto alla loro scatola fisica, al contenitore che contiene la loro essenza, è qualcosa che dà inquietudine. E se questa inquietudine è divisa e condivisa da l'ideologia della pantofola, che vorrebbe imporre un pensiero molto antico, molto anziano, da minestrina consumata alle 7 di sera e poi tutti a letto e zitti e buoni e non fate rumore, certo, naturalmente questo impone una severa regola nei confronti dei giovani. Quando prima ho sentito parlare con Stefano Morigi, che mi assisteva e continuerà a assistermi, di macchine che permettono l'espansione della vitalità dei giovani e necessità di fermare queste macchine, di tarpare queste macchine, di disconnettere queste macchine o inventare delle macchine per fermare la vitalità dei giovani, ricorda di alcune terrificanti costruzioni che venivano usate, impiegate, inventate nei riformatori e nei correzionali vittoriani per impedire ai giovani di danneggiare se stessi con le proprie mani. Detto in parole povere, li legavano a letto con una sorta di guanti chiodati e cinture di castità perché non si toccassero. Anche allora la tecnologia serviva non per espandere la vitalità, ma per comprimere il lecito o illecito abuso o uso smodato della propria sensualità. Mi è venuto in mente, mentre noi stavamo riflettendo su questa problematica, anzi venuto in mente a Fabrizio Intonti, che con Paolo Corleoni hanno velocemente recuperato il file, e anche questo è un lubrificare l'attrito da distanza, abbiamo in pochi istanti il supporto sonoro che ci serve, un vecchio film di François Truffaut che sono i 400 colpi, in cui si parla della storia di un ragazzo, un adolescente della fine degli anni 50, forse Truffaut stesso, che vive una famiglia abbastanza disgraziata non perché non sia benestante, cioè quel placido benessere di una famiglia borghese, ma c'è una madre che ha concepito questo figlio con un uomo che non è quello con cui lei vive, la madre pensa al soddisfacimento della propria esuberanza, il figlio ogni tanto la vede avvinta in abbracci non proprio coniugali, il padre è un burbero perfetto rappresentante del partito della pantofola, e questo ragazzo, ahimè, ha invece delle uscite da questa regola, che si concretizzano modestamente, direte voi, nella sua passione per Balzac, tanto che lui costruisce un altarino a Balzac di fronte al quale mette delle candele, e questo provoca un incidente domestico. I genitori, invece capire che la passione di questo figliolo per qualcosa che trascenda dal loro giorno quotidiano andrebbe incrementata, aiutata, indirizzata verso delle strade che potrebbero senz'altro giovare sia al giovane sia a loro che si contaminano con quel figlio o figliastro che hanno per casa, lo reprimono, chiudono, tagliano, fanno esattamente quello che si vorrebbe fare oggi. Già, la promessa di dar fuoco alla casa, immagino, ma con una candela non ci riuscirai mai, tesoro mio. Tieni, vuoi l'accendino? Basta, non essere ridicolo! Fino a quando sarò io a nutrirti e ad alloggiarti? Farai quel che voglio io. O non c'è che una soluzione, il riformatorio. Non sai cos'è un riformatorio? Ebbene, lo imparerai a tue spese, li filerai dritto, vedrai. per dirvi l'atteggiamento, con pieno rispetto lo dico, a volte trasgressivo ma divertente, che si hanno, anche che hanno degli adulti, quando sono contaminati attraverso un mezzo di espressione così variegato come quello della rete. Immaginate che nel profilo Facebook, che risponde al mio nome, ahimè, per mia disgrazia in questi giorni, è nato un nuovo culto. Le ascoltatrici della radio hanno scovato una sorta di icona divertente di un certo signore con la barbona, con un grosso segone in mano, che è lo strumento del martirio, che chiamano San Pippone, al quale hanno fatto una loro divertente litania, al quale si raccomandano per avere focosi interventi amorosi, e stanno mostrandomi le foto del loro computer, del luogo del loro lavoro quotidiano, dove hanno messo il santino di San Pippone. Addirittura stamattina un'ascoltatrice mi ha fatto una bottiglia di amaro di San Pippone con la foto sopra, per dire come anche l'adulto diventa trasgressivo, diventa facilmente, esce da questa corazza di austerità che ci impone l'età, ci impone l'aplomb professionale, quando si contamina attraverso un mezzo così incline all'uscita dalla regola come quello di internet. Invece no, invece il figlio dei 400 colpi di Truffaut deve essere punito, deve essere corretto, deve essere rimesso nella regola e quindi deve essere mandato in un correzionale. Vedrai a che bella festa ti porto io adesso. Finita la pacchia. Tua madre e io staremo in pace finalmente. Non si può più continuare a sto modo. Se fossi stato così alla tua età, mio padre mi avrebbe ammazzato. Posso vedere il commissario? Abbiamo provato tutto con lui. La dolcezza, la persuasione, i rimproveri. E badi che non l'ho picchiato, questo mai. Nei vecchi sistemi c'era del buono. Sì, d'accordo, ma sua madre e io ci siamo comportati diversamente. Lo lasciavamo libero. Troppo, forse. No, non si può neanche dire. Certo, sua madre lavora, io anche. E sa come succede, commissario. Sono padre di famiglia anch'io e devo ammettere che qualche volta è molto difficile. Luca, buongiorno. Buongiorno. Comincio a dare la voce agli ascoltatori perché forse mi sono dilungato un po' troppo nei miei pensieri. Lei la pensa come Alberoni e pensa che sia giusto porre dei limiti e delle regole? Sì. Dovrebbe parlare più vicino al telefono, la sento un po' lontana. Ma al viva voce? Sì. Eh no, dovrebbe mettersi senza viva voce. Scusi, perché sennò fa un alone strano la voce, anche il telefono e me, che qui questa mattina siamo per limitare nel suo uso indecente a delle regole d'uso. Adesso la sentiamo meglio, Luca? No, vediamo, richiamate Luca, vediamo se riesce a usare meglio il telefono. Alfredo, buongiorno Alfredo. Alfredo, ecco, lei la sentiamo bene. Sì, mi sente, buongiorno. Sì. Ma niente, io ho visto l'importanza, no, di questa, diciamo, di questa problematica. Le faccio solo un piccolo esempio. Domenica pomeriggio mio figlio, 15 anni, è tornato a casa dicendo, gli abbiamo detto, ma come mai sei già a casa? E gli amici dice, guarda, gli amici non ne ho trovato neanche uno perché sono tutti a casa che si chattano l'un con l'altro, cioè nessuno vuole uscire perché preferiscono praticamente fare in questo modo. Questo tanto per, ecco, quello che volevo dire, secondo me, quello che oggi manca, no, a questi figli, questi adolescenti, è quel, secondo me, è quel fatto che nella loro testa, diciamo, ci sia un vuoto, adesso non dico proprio tutti, però ci sia in stragrande maggioranza un vuoto morale, no? Un vuoto, diciamo, etico, un vuoto praticamente di coscienza da una parte, e dall'altra, secondo me, c'è il tutto è dovuto, cioè oggi un adolescente pretende, diciamo, dove può il tutto senza fare un minimo di sacrifici e senza neanche apprezzare, voglio dire, la bellezza di fare un sacrificio per poi esserselo guadagnato. Ecco, io la vedo un po'. No, lei dice esattamente quello che mi sentivo dire io della mia generazione di 50 anni fa e probabilmente anche i nostri genitori. Questo è il normale bagaglio generazionale che vede sempre un vuoto, una differenza nei giovani. Lo vedevano in me i miei genitori, anch'io dei figli, lo vedo un po' meno nei miei figli perché cerco di dedicargli più tempo, cerco di riempire anche io a costo del mio tempo un po' il loro vuoto, di dare a loro delle alternative, meno spaventi ai giovani che chattino, anche perché stando io gran parte del mio tempo davanti a un computer vedo adulti, ultra cinquantenni, che passano le giornate a chattare. Quindi questa è una realtà non soltanto dei giovani, ma una realtà dell'umanità, di trovare delle forme di relazione attraverso forme alternative. Elisa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ho ascoltato con attenzione perché ultimamente mi sono trovata spesso a parlare anche con coetanei miei di questo. Io ho tre figli adolescenti che utilizzano tutti questi diabolici strumenti. Ecco, ha detto la parola diabolici. Perché diabolici? Sì, ecco, non lo so perché. L'idea che io mi sono fatta è che si faccia fatica a capire, a relazionarsi con i ragazzi, perché comunque è giusto quando diventano più grandi che acquistino un loro privato, quindi un loro modo di relazionarsi. Il punto qual è? Che noi adulti, perlomeno la maggior parte, non lo conosciamo. Lei posso chiederle una cosa, signora? Certo. So che è maleducato, ma visto che siamo tutti amici, lo dico. Mi dica. Lei quanti anni ha? Io ne ho 40 e ho tre quindi, figli adolescenti. Quindi signora, lei è una ragazzina nei miei confronti, che ne ho 54 compiuti. E le posso dire che la maggior parte delle mie amiche, amici, le mie frequentazioni sono persone che per necessità e per limiti di tempo e di spazio ci incontriamo attraverso quel mezzo diabolico di cui lei vede soltanto appannaggio i propri giovani. Anzi, lei è una frequentatrice giovane, sarebbe, di questi luoghi. Oggi l'umanità si stabilisce anche attraverso questi mezzi, non è una uscita dalla regola. Comincia a essere la regola dei nostri tempi. È proprio questo il punto, che li utilizzo molto anch'io e come lei, per scarsità di tempo, perché comunque... Ma anche per piacere, perché è divertente, per piacere, a volte. Per piacere, per poter tenermi in contatto e tenermi aggiornata con quello che succede. Ecco, allora perché ritiene diabolico per i suoi figli quello che per lei è un piacere? No, non lo ritengo affatto diabolico, è proprio questo il punto. Il punto è che io non lo ritengo diabolico, io lo ritengo necessario. Loro lo utilizzano, a me fa piacere che lo usino e non mi sono mai accorta che questo vada ad inficiare le loro relazioni personali. È un altro modo, perché quello che a me sembra, quello che io vedo, i coetanei, poi guardi, la vecchiaia, questa gerontocrazia di cui lei parla, non è tanto un fatto di età. È un fatto di curiosità e di attenzione. Senta signora, io devo lasciare la linea alle informazioni per il traffico. Resti in linea, perché visto che così velocemente ha cambiato idea, mi fa piacere, visto che il potere persuasivo di chi sta alla radio in tonti mi fa segno di no. Sì, ha detto esattamente il contrario di quello che diceva prima, ma... Melog 2.0. Allora cosa decide? Sa, per il momento non possiamo riprenderlo a casa, riscapperebbe. Se lei riuscisse a spaventarlo un po', signor commissario. Non è il mio compito, signore. Ma io non ho nessuna autorità su di lui. Forse è più esatto dire che l'ha perduta. Senta, è vero che al sabato e alla domenica il ragazzo restava solo in casa? Mio marito di solito va a un club sportivo e può darsi che Antoine sia rimasto qualche volta solo. Ma lui odia lo sport, preferisce rinchiudersi nei cinema a rovinarsi gli occhi. Padre mi incarica di dirti che si disinteressa completamente di te. Questo posto è proprio quello che ti ci vuole. Volevi guadagnarti la vita? Ebbene, vedrai com'è divertente lavorare il legno e il ferro. Ecco, torniamo appunto a quella che è la regola correzionale numero uno: impegnare fisicamente i giovani, farli stancare, farli massacrare di fatica. Una volta si faceva fare molto sport perché i giovani perdessero le concupiscenze corporali, e così non hanno questa insensata maniera di fuggire seguendo i loro pensieri, le loro fantasie. Stefano Morigi, ti ho lasciato la parte, la seconda parte, ma ti ridò modo di commentare tutto quello che hai sentito in questi minuti. C'è un punto che a mio parere emerge da tutte le testimonianze che hai raccolto, è l'idea non ancora diffusa che la tecnica sia, e le tecnologie ovviamente, siano cultura a pieno titolo. E per chi le frequenta e per chi le studia questo è assolutamente evidente. Un comune amico mio e tuo, come Derrick De Kerkhove, che studia da anni le tecnologie della comunicazione, spiega che noi siamo le costanti reinvenzioni delle nostre stesse invenzioni. Quindi la tecnologia articola i nostri modi e i nostri comportamenti, i nostri stili di vita, ma con essi anche i nostri stili di pensiero. Inevitabilmente questo produce delle trasformazioni che inevitabilmente producono anche scompensi in chi non è abituato a metabolizzarli nella propria vita quotidiana piuttosto che nelle proprie ricerche. Anche perché, Stefano, sono mutazioni che avvengono in maniera sempre più veloce, sempre più repentina. Non ci sono i tempi fisiologici per metabolizzarle. E questo quindi di conseguenza produce quello che già il maestro di De Kerkhove, che era McLuhan, chiama quelli cosiddetti intellettuali a orientamento libresco, cioè quelli che non riescono a star dietro a questo progetto e quindi cominciano a demonizzarlo come se non fosse cultura, come se fosse il pericolo che minaccia quel modi di vita in cui loro ancora si ritrovano, esempio quello del libro, no? Che è ancora un tipo di cultura umanistica rispetto sì, a quella, è un feticcio così intoccabile. Guarda, una volta dissi basta con questa idea di buoni libri, si stampano infinità di sconcezze, ci riempiono le case di carta muffita e puzzolente. Guarda, quasi avessi bestemmiato. Io ho edulcorato la frase di McLuhan. In realtà sì, parlava di analfabeti a orientamento libresco, non per voler insultare nessuno, ma per voler dire che c'è una risacca inerte di persone piuttosto che di intellettuali che faticano a ritrovarsi in questo modo nuovo di agire, di pensare e di relazionarsi. Si dice che si passa dalla relazione alla connessione, si dice che i ragazzi non sono in grado più di relazionarsi, non è affatto vero. I ragazzi continuano a incontrarsi, ma incontrano ancora di più in altri modi persone che diversamente non avrebbero modo di sentire o di vedere. Capita molto spesso anche a me, attraverso Facebook, SMS o Skype o chissà quali altre strategie, di continuare a rimanere in contatto con persone che diversamente non avrei modo di vedere, banalmente per ragioni di assenza di quell'ubiquità che tutti noi vorremmo. Per cui non ci vedo niente di pericoloso in questo, se non una dilatazione delle frequentazioni e delle contaminazioni di idee. Questo può creare sconcerto in alcuni, ma è quel vuoto che riguarda non tanto i giovani, ma i vecchi. Questo è il problema. Elisa, l'ho ripresa, Elisa, eccomi. Sì, ecco. Ma l'avevo interrotta brutalmente, volevo aggiungere. Ma io ho esordito con diabolico proprio perché il punto è proprio questo, che mi dà l'idea che ci sia una paura diffusa dovuta all'ignoranza, perché è la quello che ha detto Morigi adesso praticamente. Ignoranza, esattamente. Io direi che addirittura più che una dilatazione può diventare una moltiplicazione. Perché internet, gli SMS, tutte queste forme tecnologiche di comunicazione, i miei figli che hanno 16, 14 e 12 anni, loro sono nati già con questi strumenti. Sono digitali nativi, come si suol dire. Sì, esattamente, per loro sono naturali e non fanno altro che utilizzare qualcosa che fa parte della loro vita. Sì, ma ragione di più dire imponiamogli la moratoria perché riprendano in mano il libro, secondo me sembra un pensiero eccessivamente passatista. Grazie Elisa, la saluto e la ringrazio. Passo a Luca, che anche Luca abbiamo recuperato. Luca. Ciao, buongiorno. Eccomi, buongiorno qua. A tutti. Sì. Volevo rafforzare il punto di vista dei digitali nativi. Io, pur avendo 37 anni, mi sento agganciato a quella generazione e ancora adesso ricordo così con un sorriso le letture di qualche anno fa. Faccio riferimento per esempio a Essere digitali di Nicolas Negroponte, che quando era uscito allora sembrava un libro di fantascienza nel quale si narrava di questa tecnologia pervasiva che avrebbe in qualche modo coinvolto diversi aspetti della nostra vita. Diciamo che è un libro che è stato in parte ancora non proprio confermato dai tempi, perché io questa trasformazione degli atomi in bit devo ancora vederla, vedo ancora le strade piene di autotreni e ci vedo ancora molto legati a cose materiali. Comunque molto legati agli atomi, questo è vero, certo. Volevo semplicemente dare questo punto di vista diverso, appunto, del valore che può avere anche la rete, intesa proprio come rete internet, ma rete di comunicazione in generale, per quello che riguarda la comunicazione orizzontale, per quello che riguarda l'informazione dal basso, quindi oltre che tutto il discorso relativo alla controinformazione, se vogliamo, o comunque noi sappiamo che in Italia abbiamo una situazione comunque editoriale quantomeno particolare. Sì, ma qui stiamo entrando, vede, in uno specifico già stiamo discutendo di cosa sia e cosa non sia. Il tipo di pregiudizio che stiamo cercando di analizzare questa mattina, che abbraccia non soltanto la rete, ma abbraccia tutte le possibilità di espansione al di là del controllo sensoriale, fisico proprio, non entrano nemmeno in questo tipo di specifico. È sbagliato, rappresenta un'uscita dalla regola, quindi bisogna ripristinare la regola, e per ripristinare la regola si toglie, si taglia, come appunto i genitori del film di Truffaut mandavano volentieri, quasi con un sorriso di compiacimento, il figliolo in un terribile correzionale, in un terribile riformatorio, solo perché egli era appassionato di cinema. Laura, buongiorno. Buongiorno, salve, io ho 30 anni, sono un'utilizzatrice di internet, di cellulari, eccetera, e quindi penso che siano assolutamente degli strumenti importanti. Però volevo fare un collegamento tra il tema degli SMS e quello dei cornetti, no? Della chiusura dei cornettari, nel senso che secondo me questo è emblematico del fatto che fondamentalmente ai ragazzi di oggi, ma non solo, insomma anche agli adulti, manchino nelle città degli spazi reali, fisici, di incontro che non siano proprio i bar, per esempio, nel senso che per come sono fatte le nostre città, io quando ero bambina, che comunque ho 30 anni e quindi sono giovane, però stavo via pomeriggi interi senza che i miei sapessero dov'ero, perché si passava da un cortile all'altro, da un parco all'altro, e oggi questo non è più possibile, perché se un genitore perde il controllo di un figlio per più di un'ora probabilmente va in panico, perché siamo pieni di paure. Si può vedere, guardi quanto è paradossale questo. Oggi uno dei grossi problemi ci si pone proprio il problema urbanistico. Oggi le città sono diventate dei luoghi d'inferno perché la cultura della pantofola le ha sfruttate in maniera non tenesse conto delle esigenze dell'umanità di vedersi, di incontrarsi, di avere la piacevolezza di gestire degli spazi assieme. Il genitore si meravigliava che i figli preferiscono stare a casa e chattare tra di loro piuttosto che vedersi. Probabilmente un fondo di verità c'è, cioè dato anche dal fatto di concretezza, questi ragazzi hanno dei luoghi schifosi dove vedersi, sono stanchi di vivere in posti brutti, quindi preferiscono ricostruirsi in maniera immaginaria dei luoghi belli in cui almeno in maniera simpatica si incontrano i loro spiriti, le loro attenzioni. Esatto, e poi ecco un'altra cosa, a me proprio il concetto di decoro e di quiete pubblica è un concetto che mi dà un fastidio incredibile, perché penso che possa essere utilizzato per affermare tutto il contrario di tutto e fondamentalmente per affermare un'ipocrisia di fondo, nel senso che è la mistica della minestrina fatta con il dado dopo la quale si chiude la giornata tutti buoni e tutti zitti. Stefano Moriggi, concludiamo. Sì, guarda, quello che dicevi tu poco fa per me è molto pertinente, senza entrare nello specifico di cosa sia una rete o altro. C'è questa linguaggio della penitenza, come se dovesse riscattare chi frequenta le tecnologie da una trasgressione commessa. Questo è il sintomo più evidente che la tecnologia non è ancora percepita come cultura. Questo gap, questo vuoto andrà colmato, e prima lo si colmerà, prima riconquisteremo una forma di cittadinanza evoluta e a mio parere anche maggiormente democratica. Grazie Stefano Moriggi, grazie, ringrazio Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti che hanno contribuito a questa trasmissione. L'appuntamento per domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.